Lezione 3. Ho una camera prenotata. Buongiorno. Buongiorno, senta, ho una camera prenotata, mi chiamo Guerrini. Guerrini? Sì. Attenda un momento. Sì, una stanza singola per 4 giorni. Esattamente, per 4 giorni. Allora le do la chiave. Mm-hmm. Ecco la chiave, la stanza è la numero 45. Benissimo. Oh, senta, la stanza è silenziosa, vero? Sì, sì, sì, da sul cortile interno. Ah, ecco, bene. Ha un documento, per favore? Sì, ho la patente, va bene? Sì, perfetto. Bene. Oh, senta una cosa, per il pranzo faccio ancora in tempo? Adesso che ore sono, scusi? Sono le 11:25, quindi non c'è problema, perché il pranzo è da mezzogiorno alle 2. Ho capito. Va bene, senta, quindi non devo prenotare allora? No, assolutamente. Bene. Sì, ancora una domanda. La cena a che ora è? La cena, dunque, dalle 19:30 alle 21:30. Benissimo, la colazione? Dalle 7 fino alle 9 di mattina, ovviamente. Mm-hmm. Senta, eventualmente è possibile fare colazione in camera? Certo, lei telefona, mm-hmm. ce lo dice e noi mandiamo su la colazione. Benissimo, bene. Sì, senta, oltre alla valigia altri bagagli? No, soltanto questa valigia. Sì, però una cosa, io ho la macchina parcheggiata qui davanti. Sì. Non so se dà fastidio. No, non c'è problema. Comunque se vuole c'è anche il garage dell'albergo. Mm. Beh no, adesso sa, sono un po' stanco, vorrei andare in camera. Comunque sì. La macchina lì non disturba. No, non si preoccupi assolutamente. Ho capito, bene. Allora, l'ascensore dov'è? Guardi, è lì, prego. Benissimo, allora più tardi. Arrivederci.